I'm not the shit you spoke to kill me. Look, girl, what I can do, not what I can. They fucking are me. I'm not the shit you spoke to kill me. Look, girl, what I can do, not what I can. They fucking are me. They fucking are me. Mi ricorderò delle volte che ho detto no per colpa della vita astuta di un altro. Mi ricorderò delle volte che per questo ho pianto. Mi ricorderò di chi ti sfida con nulla in mano o ti mette contro i tuoi stessi miti. Mi ricorderò di chi è per colpa di questi. Non siamo mai partiti per i nostri paradisi. Amore, ti farò ricordare i tuoi escamotage per farla franca, barando più di me nell'arte. Ti ricorderò di ogni mio splendore, ti ricorderò della mia musica in sole ore, perché sei quello che approfitta di chi sta male. Metterò ogni mio battito, abito, per poterti assomigliare esteriormente, e dentro quello che ti rimarrà sarà un'anima vuota, distante, ma per le mie distanze. Canterò questa canzone come senza Dio, perché lascio muto il mio cuore. Quelli come te rovinano la parola amico, non l'hanno mai saputa veramente rispettare. E anche se hai una vita, la tua farà cagare per le volte che ti appoggiavi e io cadevo in un baratro nero, in un baratro nero. Anche se avrai soldi, non saranno i miei, non sarà dal mio sudore, non sarà dalla mia notte solitaria. Ora ho luci dentro e ali, ho vette di pensiero e i miei ideali, e dentro non ci sei, perché risuona con l'eco di tutti i giorni non miei, in vero, in cui spero non metterai le mani. Ho camminato dall'inferno prigioniero fino al paradiso libero, passando a redimermi per il mio purgatorio, e ho visto il tuo volto sorridere, ma questo è il tempo con questo mai ti uccidere. Il mio cuore si innalza, non sentirà più il tuo falso nome. Ora è il tempo per le persone vere, gli artisti veri che stanno agognando una prigione, prigione ingiusta, il nostro posto stanno in paradisi. Falsi menzogneri, arsi altri, bruciando il falso merito, eletti a torto metro.